Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Subito la mail, unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog. Mi farà davvero piacere se lo visiterete, se lascerete dei commenti o suggerirete delle cose. Si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore, giornale del quale sono inviato, oppure robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. E veniamo oggi ad un caso che ci è stato segnalato da un radioascoltatore di Pomezia, quindi siamo nel Lazio. Un caso molto interessante, perché sono convinto che non riguarderà soltanto nella fattispecie chi ci ha scritto, ma anche moltissimi radioascoltatori. Ora, cosa succede? Che questo nostro amico Giovanni Ruo riceve un verbale per la violazione di una legge, la legge numero 662 del 96. Che cosa era accaduto? Che lui, insieme ad altre persone, che condomini che appunto abitano nello stesso edificio, si era avvalso delle prestazioni di uno studio tecnico, un architetto che noi chiameremo l'architetto A. Ovviamente non svegliamo il nome. Cosa scopre il nostro radioascoltatore? Che in realtà questo architetto era un dipendente dell'Agenzia del Territorio di Roma e che quindi probabilmente non avrebbe potuto contemporaneamente svolgere un'attività professionale propria, o quantomeno avrebbe dovuto avvertire la sua amministrazione, e aggiungo io anche i suoi clienti. Dico bene o dico male, Ruo? Buongiorno intanto. Innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, ha chiarito perfettamente tutti gli eventi. Sì, la cosa anomala è proprio questa. Noi ci siamo visti arrivare questo verbale dalla Guardia di Finanza presso la nostra abitazione, in cui ci si contestava la violazione dell'articolo 1,58 della legge 662 del 96, che è quella che ha citato lei. Però la cosa anomala, ecco, che anche nel verbale l'illecito sembra averlo commesso l'architetto, perché lui non ha comunicato al proprio ente di appartenenza di svolgere anche mansioni come privato. Certo, come libero professionista, diciamo. Esatto. La multa però la paghiamo, e adesso non so se pagherà una multa anche l'architetto. Certo. Sicuramente la paghiamo noi. Ecco, infatti lei ci ha mandato anche altra documentazione. Recentemente voi avete fatto una domanda all'Agenzia delle Entrate, e cercando di capire e di chiedere lumi, una memoria difensiva, perché giustamente voi dite, ma insomma noi come facciamo a sapere che quello è un dipendente? La cosa anomala è che telefonicamente tanto la Guardia di Finanza che un dirigente dell'Agenzia delle Entrate ci hanno rassicurato, dicendoci che sicuramente c'era stato qualche errore, che dovevamo stare tranquilli perché la multa non era dovuta, e che sarebbe bastata una memoria difensiva con la richiesta di archiviazione e il caso sarebbe stato automaticamente archiviato dall'Agenzia delle Entrate. Questo è stato prontamente fatto. Sì. Purtroppo però proprio un paio di giorni fa siamo stati contattati telefonicamente dall'Agenzia delle Entrate, che ci hanno detto molto candidamente che purtroppo la violazione c'è stata. La legge è uguale per tutti e non ammette ignoranza. Per cui ci arriverà presto una ulteriore notifica che siamo costretti a pagare. E voi pagherete. Noi pagheremo. Ecco, poi andrete avanti, giustamente, secondo me in maniera sacrosanta, se ci saranno i presupposti, andrete avanti con la vostra causa. Allora, per cercare di capire se ci sono degli errori, se il caso è abituale, se c'è qualcosa che non quadra, noi abbiamo chiamato il presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma, l'architetto appunto Amedeo Schiattarella. Buongiorno Schiattarella. Buongiorno a lei. Allora, lei è rimasto colpito da questa vicenda? È abituale oppure, come dire, presenta dei lati oscuri? Ma diciamo che naturalmente sono rimasto colpito, perché è chiaro che questa anomalia di dover colpire anche, come dire, la parte terminale del processo, cioè il cliente, mi sembra quanto mai, come dire, sorprendente. Bizzarra. Eventualmente non avrebbe nessuna possibilità, diciamo, in qualche modo di avere, come dire, notizia certa di questa, di un eventuale reato. Ma al di là di questo, devo dire che bisognerebbe un attimo capire bene se effettivamente poi questa violazione c'è stata, perché la norma non è poi così tanto chiara. Ah, ecco. Perché è vero che esiste questa legge, che è del 96, che dice appunto che il dipendente è tenuto a comunicare all'amministrazione l'eventuale, diciamo, attività lavorativa che fa da dipendente. Questo è vero, ma esiste poi un decreto legislativo che esce nel 2001 che da una parte ribadisce questo concetto, ma dall'altra poi addirittura invece esclude da quanti debbono fare in qualche modo questa comunicazione i dipendenti che hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore, questa è la definizione, non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Quindi questo architetto di cui noi stiamo parlando è proprio in questa fattispecie. Ecco, è proprio in questa fattispecie, quindi un lavoratore a tempo parziale. Parziale che ha scelto proprio il tempo parziale, certo, inferiore al 50% per poter esercitare la professione. Ecco, questa contraddizione tra le due cose sono all'interno dello stesso decreto legislativo 165 del 2001. Ecco, tra le altre cose, è giusto e doveroso, secondo me, architetto, puntualizzare che il lavoro è stato regolarmente eseguito a norma, intendo dire pagato, fatturato dall'architetto, quindi ringraziando Dio non siamo tra l'altro in nessuna fattispecie di violazione di norme e probabilmente, vado per intuito, mi corregga architetto se sbaglio, lo stesso suo collega pensava di essere nel giusto, nel corretto, altrimenti non avrebbe fatturato, no? Sarebbe andato con un assolutamente nero. Sì, ecco. Assolutamente sì, non è un caso che l'ATER poi dica non si preoccupi, fate un ricorso e vedrete che avete ragione, perché lo stesso ATER evidentemente, diciamo, in qualche modo confida nel fatto che questa è una prassi abitudinaria e che di fatto questa azione, questa attività non viene considerata una violazione, ecco, proprio perché c'è questa contraddizione. D'altra parte noi stessi, devo dire, nell'esaminare questa materia, perché naturalmente abbiamo voluto esaminare con i nostri legali e diciamo abbiamo potuto trovare con mano questa contraddizione interna allo stesso, certo, benissimo, alla stessa norma. Allora io la ringrazio intanto per queste sue prime riflessioni e passiamo la parola ad una persona super partes, ad un esperto del Sole 24 Ore che avrete sentito diverse volte nella mia trasmissione, l'avvocato Fiorentino Gaetano Viceconta. Buongiorno, avvocato. Buongiorno. Allora, intanto le chiedo, avvocato Viceconte, le cose sono state esposte correttamente dal radioascoltatore e dal presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma. Qual è il suo giudizio? Dunque, innanzitutto io farei una precisazione da un punto di vista normativo, perché è vero che il fatto origina dalla mancata comunicazione dell'architetto alla propria amministrazione dell'attività di lavoro dell'attività di libero lavoro professionale, ma la sanzione a cui facciamo riferimento è una sanzione introdotta con un decreto legge del 97 ed è una sanzione che colpisce le forme più svariate di doppio lavoro abusivo dei dipendenti pubblici, facendo ricadere proprio sul committente, cioè sul soggetto che utilizza l'attività lavorativa, l'onere di pagare una sanzione che è correlata in realtà agli adempimenti che l'architetto deve fare presso la propria amministrazione. Ecco, quindi un secondo, che avvocato, la interrompo un attimo. Lei ci sta dicendo dunque che è vero che questo architetto si era avvalso della possibilità del part-time, ma è anche vero che probabilmente non aveva comunicato alla sua amministrazione che avrebbe espletato un'attività professionale e comunque c'è un decreto legislativo che, ahimè, fa ricadere delle colpe anche sul committente. Infatti, perché la singolarità di questa vicenda poi è che, indipendentemente dagli obblighi o meno della sussistenza, gli obblighi o meno dell'architetto nei confronti della propria amministrazione, l'inadempimento delle prescrizioni ricade sul committente. Ecco, ma questo perché, avvocato? Cioè, è abbastanza curioso il fatto che ricada sul committente. Io come posso sapere se lei, che è magari un avvocato dipendente dell'ufficio legale del comune X, e poi ha comunicato la sua amministrazione che fa anche l'avvocato per proprio conto, in fin dei conti perché devo essere io a pagare? Infatti qui soccorrono le norme del codice deontologico degli architetti, in particolare, che obbligano l'architetto a svolgere la propria prestazione in conformità con tutte le prescrizioni di legge. Quindi c'è, se non ricordo male, ma qui c'è il presidente dell'Ordine degli Architetti che ovviamente può precisare, c'è l'articolo 15 del codice deontologico degli architetti che dice che nell'accettazione dell'incarico l'architetto deve chiarire con il committente, nel rispetto delle leggi vigenti e di tutte le norme, i contenuti e i termini della propria prestazione. Però dalla sanzione non scappa il nostro radioascoltatore, mi pare di capire. Allora, come può scappare dalla sanzione? In due modi, molto sinteticamente. Prego. O si avvale di questa norma dell'articolo 15 per far valere la propria buona fede e quindi escludere l'elemento soggettivo della responsabilità, certo, in questo caso, dicendo che doveva essere onere del professionista comunicargli il suo status lavorativo. Oppure? Oppure subisce la sanzione e propone un'azione di risarcimento danni nei confronti dell'architetto, perché le norme deontologiche qui costituiscono anche regole che possono essere poi utilizzate dal privato o quando, come nel caso specifico, si è verificato un danno non imputabile certamente alla responsabilità del privato. Assolutamente. Io ringrazio l'avvocato Viciconte per i suoi chiarimenti. Grazie al presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma, Amedeo Schiattarella, al nostro radioascoltatore Giovanni Ruo, e come promesso torneremo su questa vicenda non domani, non dopodomani, ma sicuramente nei prossimi mesi, per capire come è andata a finire. Consulteremo anche altri esperti, magari di diritto tributario, perché francamente io personalmente non trovo corretto che ricada l'onere sul committente che in buona fede ha appaltato dei lavori. Da Roberto Galullo, grazie. In regia Giorgio Mattei, in studio Laura Faggin, buona giornata e a risentirci domani.